Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, sono le 8 e 19 minuti in punto, caro Oscar. Oggi la prendo un po' lenta. Dobbiamo spiegare ai nostri ascoltatori che è una puntata un po' particolare. Eh sì, è una puntata un po' particolare perché c'è indetto, è stato programmato uno sciopero di rappresentanze sindacali, di cui fanno parte anche quelli che vengono definiti gli assistenti tecnici della radio. Assistenti editoriali, tecnici, il personale non giornalistico. Per cui domani, tra l'altro, sono le 24 ore per lo sciopero dei poligrafici, non sarà in edicola domani. E quindi insomma è una edizione particolare, nel senso che non tutto il lavoro in questo caso dei nostri assistenti, per dire, mandare in onda gli ospiti, chiamare gli ospiti, mandare in onda gli ascoltatori, le telefonate, non sarà possibile, quindi non potremo avere telefonate e quindi vi beccate Milan e Giannino che strologano loro, che sproloquiano per non ve lo voglio imporre, ma abbiamo ritenuto che tra mandare in onda un concerto Led Zeppelin, secondo me era meglio, però e noi due oppure infatti, le Zeppelin ma metà avevo, e l'altra metà Bob Marley. Avevo già tirato fuori il concerto di Bob Marley e lo sapevo. E invece un invece, ottimo in cui la performance ci tocca. Del resto sai, il giorno ha le sue particolarità, sono le Idi di marzo, ragazzi. Cioè le 23 pugnalate famose a Caio Giulio Cesare sono oggi, però non tutti gli anniversari sono destinati a essere ricordati nel sangue, però quello si ricorda in particolare. Oggi la notizia è che non è uno delle decine dei Santi Alessandro che d'ora in poi ricorderò incessantemente, bensì auguri a chi si chiama Luisa, perché oggi è Santa Luisa di Mauriac, che è una grande santa della, per così dire, delle opere pie per i poveri in Francia, perché è la fondatrice insieme a San Vincenzo de Paoli delle Dame della Carità, cioè di quello che si chiamavano poi nella volgata popolare le suore grigie. Pensate che lo stesso Napoleone, che aveva sempre avuto dei dubbi sulle politiche anticlericali della rivoluzione, disse in più di un'occasione, disse: ma qui stiamo commettendo un errore a espropriare ordini che invece sono nella storia della Francia, ma soprattutto hanno fatto quello che i poteri pubblici allora non potevano fare verso i poveri, i bambini abbandonati, eccetera eccetera, perché quella congregazione sta scritta proprio nella storia della Francia, per così dire. E oltre alle Idi di marzo, dal punto di vista giornalistico, una data che io mi ricordo sempre perché mi è rimasta impressa, perché nel 1976, io avevo 15 anni ma c'era stata da poco la riforma della RAI, nacque il TG2, il cui direttore era Andrea Barbato, che è una figura di giornalista che nella mia evoluzione personale ha contato tantissimo. Io ne avevo una stima enorme, poi l'ho conosciuto ovviamente pochi anni dopo eccetera, e questa idea ricordo sempre mia madre perplessa, perché di fronte al fatto che non c'era più solo il TG1 della DC, ma c'era addirittura un altro telegiornale di cui non si capiva il sostegno al governo, lascia mia madre molto perplessa. Lo so che fa ridere a dirlo, però per me quella giornata è un ricordo di quelli particolari, indelebili, per così dire. Nell'85 oggi nasceva il primo sito internet, veniva registrata il primo sito internet, e nel 2003 i Savoia tornavano in Italia. Già. Auguri a Gian Antonio Stella e a Roberto Maroni. Allora, tra l'altro devo dire che no, WhatsApp non è in sciopero, gli SMS non sono potete in sciopero, potete mandarli. Ringrazio anche il simpaticone, poi ti dico privatamente chi è, caro Oscar, che ci dice: leggete almeno i messaggi che vi mando, tipo Forza Juve, ecco lo leggo, che arrivi questo, so che c'è una telepatia e sa bene lui a chi mi sto riferendo, e ovviamente a lui grandissimi auguri per una cavalcata certamente trionfale della Juventus, che si concluderà non so dove, in una finale stravinta in Champions League. Non so dove sarà quest'anno la finale di Champions League, non mi interesso più di queste io cose. Mi sto reprimendo il cervello, perché quando hai detto non so dove mi parto, ma mi sto reprimendo. Tu Peter Pescapè sai quest'anno dove fanno la finale di Champions League? Io non lo so. in Inghilterra, così pare in Inghilterra, cominciamo a circoscrivere pare in Inghilterra nell'orbe terracqueo, ma io non lo so, non mi interessa. Comunque, cari auguri alla Juve, tutti quelli che ci scrivono, forza Juve, hanno passato con un calcio di rigore netto, limpido, chiaro, anche un altro turno. Mi ammutolisco di nuovo, bisogna essere politicamente corretti e soprattutto bisogna... Mi aiuta mio fratello, scusa, a Cardiff, affetto. In Galles, è il Galles, mio fratello mi ha scritto in questo momento. Un grande affetto, perché tuo fratello poi è Juventino. Ho un fratello Juventino. Lo so, lui si dovrà molto del fatto che tu... ma almeno è anche lui per la Prosesto o no? Non lo so, credo no. Agnostico su... Sui culti locali, per così dire, non è molto... No, ma comunque mandateci quindi riflessioni via SMS, WhatsApp, quelle le leggiamo, se volete farci domande noi siamo... Perché tu pensi che ci vada la Juventus in finale? Non è che ci andrà, con una marcia trionfale e uscirà da Cardiff con la Coppa. Questo sicuro, è abbastanza nettamente la più forte, così succederà. No, perché non si capisce, un po' come prima quando ho sentito, cioè dovete sentire, cari ascoltatori, vi ricordate Togliatti aveva un grande vezzo, quando voleva sfottere qualcuno fingeva di storpiarne il nome. Sì. È un po' come capita quando nei notiziari di questa rete si citano quelli che fanno i gol della Juve, ma è voluto, è l'effetto togliattiano. Per mostrare superiorità. Però detto tutto questo, lasciamo il calcio, tranne a chi porta le squadre alle 6 del mattino, però perché esatto. Gli hai fatto bene con Meazza a fare una riflessione che forse ogni tanto farebbe bene a noi tutti, per così dire. Però quell'allenatore mi è piaciuto. Esatto. L'allenatore del Lugano, tra l'altro, sì. Tramezzani, italiano, ex giocatore perché dell'Inter. Perché avevano perso, insomma, con chi non dovevano perdere una partita. Ha portato i giocatori in fabbrica, non a lavorare, è che li ha messi però a parlare con gli operai. Con il muso di fronte al tornio, cioè, per usare un'espressione un po' colorita, come dire, insomma, venite un po' a capire che cosa vi farei fare ogni tanto per capire come si suda il salario. Senti, a proposito di salario, però Oscar, ci devi spiegare questa cosa dei voucher, perché il 28 maggio ci sarebbe, dovremmo usare il costituzionale, un referendum, ci sarà forse un referendum con due quesiti, uno su abolire i voucher, uno cambiare la normativa sugli appalti. Sì. Il problema è che sul quesito sui voucher c'è un grandissimo punto di domanda, perché il governo vuole fare un decreto legge forse venerdì per di fatto rendere inutile questo referendum. Perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che il referendum è abrogativo, però fino all'ultimo secondo, in caso di una modifica sostanziale degli aspetti della norma su cui insiste il quesito, la Corte di Cassazione può dire in effetti questa nuova legge cambia i termini della questione, quindi decade il referendum abrogativo. Ricordiamo che questi due quesiti restanti sono solo la pallida ombra di ciò che aveva in mente la CGIL. La CGIL aveva il vero quesito d'assalto per fare politica, irrompere nel dibattito PD post referendum, nella sconfitta di Renzi, nella leadership del PD, era quello che la Corte Costituzionale ha fatto decadere l'11 di gennaio, che era quello relativo all'articolo 18. Adesso si trovano spuntati, perché i due quesiti restanti, uno quello sulla disciplina del lavoro solidale tra stazioni appaltanti e subappaltatori, lo capiscono a malapena gli addetti ai lavori, a dire la verità. Sì. Quindi di sicuro con anche se è importante, cioè voglio dire, molto delicato, però, portare lì un quorum di elettori. Quorum. No. Tra l'altro, ricordiamoci, negli ultimi 20 anni, dal 1997, questi sono il 68esimo e il 69esimo quesito del referendum abrogativo nella storia della Repubblica, ma negli ultimi 20 anni, tranne che nella tornata dei quattro quesiti referendari del 2011, quelli sull'acqua, per intenderci, il referendum sull'acqua, tutti gli altri, cioè 25 quesiti referendari in 20 anni, non hanno fatto il quorum. Sì. Eppure la lezione non sembra mai imparata, perché cosa dovremmo fare per abolire per questo referendum o abbassare il quorum? I proponenti dovrebbero primo capire che finché non si abbassa il quorum è inutile. No, ma i temi non possono essere tecnici come la disciplina del lavoro accessorio attraverso uno strumento come il voucher, perché io sfido veramente chiunque. Cioè, secondo te anche quel referendum non raggiungerebbe anche quel referendum viene ridotto a una bandiera, come fa la CGIL, perché la bandiera dice voucher uguale strumento di precarizzazione. E così, se andiamo a vedere i dati, lo so che sono cose noiose, se andiamo a vedere i dati dell'INPS, uno studio di Anastasi e Pietro Garibaldi, vediamo che non non è così, non è così, perché oltre il 55% degli utilizzatori sono o pensionati o disoccupati o chi lo fa come secondo lavoro in presenza di un primo lavoro a bassissimo reddito, cioè sono veramente strumento accessorio che ha fatto emergere un bel po' di mansioni per i quali non ci sarà mai un contratto e prima erano in nero, questa è la differenza. Tipo i pensionati che fanno il lavoretto. Esatto, certo, quelli che fanno i lavori. Tant'è che i settori dove vanno di più sono il turismo, dove c'è il lavoro stagionale d'estate, il commercio, i lavori di manutenzione in casa e giardinaggio, cioè esattamente quelli dei lavori accessori. È vero, c'è un terzo dell'utilizzo che riguarda una generica area di altre attività d'impresa e lì io per primo dico un correttivo su ci vuole, perché nelle costruzioni ho il punto interrogativo, nell'agricoltura che non ci siano abusi, ma il problema è che per evitarlo adesso, per evitare un quesito che secondo me non trascina si il 50% tutto. Cioè il Parlamento vogliono ridurre i voucher a nulla. Sì, allora il Parlamento con il disegno di legge vuole ridurre i voucher a nulla, ma qui c'è uno strumento ancora più, se si vuole usare questo termine, aggressivo che il governo pensa di studiare, perché quel decreto legge, quel disegno di legge in Parlamento non arriverà a compimento. Esatto, prima del perché il problema è il tempo. È il tempo, e quindi pare che venerdì la discussione ci sia un'ipotesi di decreto legge, certo, che non è detto nemmeno lui, perché 60 giorni di conversione, siamo a metà marzo, quindi non si arriva nemmeno in quel caso probabilmente, se si utilizza tutto il tempo parlamentare affinché l'ufficio centrale della Corte di Cassazione possa esaminare poi se far decadere il quesito, che è il 28 di maggio, e del resto la politica è fatta così, i problemi li affronta sempre all'ultimo minuto. E tra l'altro l'ipotesi sono due: o che vengano cancellati del tutto, e quindi se vengono cancellati con decreto legge è inutile poi fare il referendum, oppure che vengano riservati solo alle famiglie. Peraltro, se dovesse decadere la questione dei voucher e quindi il referendum del 28 maggio sui voucher non c'è più, rimarrebbe solo il referendum sul codice degli appalti. Metteremo certo in moto tutta la macchina, le urne, le elezioni, milioni, stampare le schede per arrivare a un quorum. Cioè per arrivare a per arrivare a un, non so, 12% di... Se c'è solo quello sul lavoro sociale, elettori, 7% di gente che andrà alle urne. E però a me dispiace sottolineare che l'effetto di tutto questo, cioè se la CGIL più il Parlamento e il governo riducono a niente il voucher, più, mi dispiace dirlo, il vero effetto autogol di questo quesito, che era nato semplicemente come traino con lo suo articolo 18, sarà quello di riconsegnare al lavoro nero chi ne era uscito. E questo, secondo me, ci andrei piano a dire che è un grande trionfo. Ripeto, correzioni sì, ma qui si tratta di abbattere gli utilizzatori, i percettori, il tetto massimo annuo dei percettori e di chi lo può usare, di levarlo, dice. Ci sono oggi risposte, per esempio Guglielmo Epifani, e c'è la domanda di un intervistatore che dice: ma almeno per le società senza dipendenti, società senza dipendenti, le micro società, ma sono la stragrande maggioranza di quelle italiane, quindi l'idea è di farlo sparire. Questa è per me. Però arriva una critica, Oscar, che dice: Giannino, certo, chiedi a quelli che lavorano con i vouchers, questo se lo scrive via WhatsApp un ascoltatore, se capiscono o no il referendum. Bene, lavoreranno in nero, però questa è la risposta nel più dei casi. Figuratevi, faccio l'esempio nella mia unità familiare con mia moglie ci siamo posti il problema con due bambini, per chi ci aiuta col bambino, paghiamo in voucher. Io ho detto no, perché è un uso scorretto, quindi gli facciamo un contratto regolare e non usiamo il voucher per un assistente familiare. Quindi, come vedete, il problema me lo pongo, è come se me lo pongo. Però perché hai detto è un uso scorretto in quel caso? Perché se la prestazione è continuativa, certo, non è lavoro accessorio per lei, è scorretto. E io ci tengo a pagargli i contributi in più, perché con il voucher si paga solo 25% di contributi. Però evidentemente alcuni casi come questi invece sono concreti, ma esistono sicuramente. E tu dici però l'alternativa, quello che prende il voucher e viene pagato di fatto per un lavoro continuativo a voucher, dice quello bisogna identificare. Dice: io voglio, per esempio, diventare con per esempio grazie alle norme sulla tracciabilità elettronica che si devono al governo rendere, Renzi, bisogna riconoscere le cose buone che ha fatto ogni tanto. In effetti il tasso di aumento della seconda parte del 2016 dell'utilizzo dei voucher è molto diminuito e sono emersi in pochi mesi centinaia e centinaia di casi di uso improprio che sono stati sanzionati dall'INPS. Quindi quella è la strada da battere, circoscrivere in qualche settore preciso in cui i dati ci dicono che ci sono questi usi impropri. Secondo me levarlo di mezzo integralmente, ripeto, è un autogol. Che però è ormai è diventata una questione politica. Oggi sì, anche il retroscena di Repubblica racconta che Renzi non può permettersi, il Partito Democratico, come dire, una nuova rischio di una nuova mazzata referendaria come paura. Quella del 4 dicembre. Si chiama paura degli errori, certo. E quindi, ma infatti quindi il primo a fare la marcia indietro è Poletti. Poletti è il primo che ha detto, il ministro Poletti, riserviamolo solo alle famiglie. Cioè, sembra che il Jobs Act non l'abbiano votato loro. Loro hanno alzato il tetto massimo annuale fino a 7.000 euro, mica io. E devo dire che la maggior parte dei dati dell'INPS ci dicono però che i percettori rimangono ben al di sotto dei 5.000 euro l'anno. Però se tu alzi il tetto e poi dici no, solo alle famiglie, caro Poletti, metti d'accordo con te stesso, ecco. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, ma come vedete, come abbiamo detto, non ci sono ospiti appunto per lo sciopero di rappresentanze sindacali degli assistenti, di alcuni degli assistenti qui anche a Radio 24, ma discutiamo di temi attraverso non le vostre telefonate, non le possiamo mettere in onda, ma insomma chiamateci, scriveteci, ecco la deformazione professionale, scriveteci al 349-238-6666. Sia SMS sia WhatsApp. Caro Oscar, se vai ripartiamo, ci sono tante notizie. Per esempio, oggi la stampa dice che ci sarà una la parola usata invasione di migranti, cioè quest'anno dovrebbero esserci 70.000 migranti in più dell'anno scorso. Ma sai che sono 250.000. In previsione dell'annuncio che hai fatto oggi, che la Juventus vince la Coppa, sono quasi tutti tifosi aggiuntivi della Juventus. Ma va benissimo, va benissimo. Che questo no, discuteremo di questo perché, per esempio, oggi si vota in Olanda. Si voterà in Francia, si voterà anche in Italia, si voterà in Germania. In Francia sono tutti indagati, sembra l'Italia. Anche Macron, ormai. Vedi che non siamo solo italiani. No, esatto. Il tema migranti, per esempio, in Olanda c'è il grande tema anche europeo, il rapporto con la Turchia, c'è il movimento di Wilders, capire quanto prenderà. Insomma, ci sono tanti temi di cui vogliamo parlare. Mi chiedono, ma tu Alessandro perché non scioperi? Perché non faccio parte, faccio giornalista e quindi è uno sciopero perché l'assessore dei giornalisti col ritiro delle firme c'è stata nei giorni scorsi alla radio. Però c'è anche qualcuno che dice Milan ha tendenze punitive islamiche. Cosa vuol dire leggo punitive? Perché questo è relativo al tuo scambio di richieste al povero Meazza. Ma sì, ma perché ho detto che il sindaco di Saronno fa bene a punire quelli che hanno i cani e non hanno la paletta, e ho detto anche che chi butta i mozziconi di sigaretta per terra, siccome c'è una multa che non viene applicata, non è mai stata applicata a nessuno, dice ma dove butto io il mozzicone di sigaretta se non sono dove? Ingoialo. Ma ingoialo, ma andiamo democraticamente, cioè perché democraticamente. Ma perché lo devi buttare sul mio marciapiede, che poi anche il tuo è il marciapiede di tutti? Comprati un porta mozzicone, li vendono a 3 euro dal tabacchino, o se no ingoialo se non sai proprio dove buttarlo. Io devo rispondere a un ascoltatore che mi dice i dati sui voucher sono agghiaccianti, stanno riconvertendo i contratti con i voucher, se no me ne accorgete perché siete solo dei privilegiati. No, guardi, io ripeto, ho scritto anche oggi sul fondo sul Messaggero, tento di seguire tutti i report che escono scientifici sui dati, quello il più citato di tutti in letteratura, e vedrà che è così, è esattamente quello di Anastasia Garibaldi, che è relativo ai dati 2015. I dati 2016 sono solo stimati, sono circa 1.600.000 e l'aumento è contenuto rispetto all'aumento degli anni precedenti, 1.600.000 i percettori totali rispetto a 1.380.000 che erano quelli del 2015, e anche i cluster, l'analisi per chi li utilizza, per che tipo di impresa eccetera, quelle che le ho dato io sono i numeri ufficiali dell'INPS, non è che io non li voglio vedere. Anzi, ripeto, quei dati danno evidenza di dove intervenire, secondo me. Io non difendo i voucher per pregiudizio, non me ne assolutamente WhatsApp, no. Invece ti danno del neoliberista perché vuoi reintrodurre la servitù della gleba. Ma aspetta, dopo neanche la pubblicità, dai, pensa un attimo alla servitù della gleba. Io Mamma vado a mia. Prendere il biglietto per Cardiff per celebrare la vittoria del Coppa. Quelli sono i comunisti, non i liberisti, scusa. Voglio esserci anch'io quando la Juve vincerà la Champions a Cardiff. Tutti a Cardiff, tutti. In pubblicità. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, siamo qui alle 8:41 minuti in questa edizione un po' particolare, se ve ne siete accorti, nel senso che non ci sono ospiti, telefonate del pubblico che non possiamo mandare in onda. Ogni tanto, dai, ogni tanto. Vabbè, ci sono. Formule inedite. Ci chiede un ascoltatore: io utilizzo saltuariamente una babysitter, come la dovrei pagare? Il problema tecnico ha una risposta tecnica. Bisogna capire bene, caro ascoltatore, cosa vuol dire, secondo lei e la mamma, saltuariamente, perché il lavoro accessorio, il voucher nasce come strumento per il lavoro accessorio in un contesto legislativo che tendeva a voler ridurre l'eccesso di contratti non strutturati e troppo flessibili, e questo è il motivo per cui i Co.co.co e i Co.co.pro sono andati a esaurimento con Jobs Act. Quindi se lei dice che deve essere accessorio davvero, cioè deve essere occasionale, perché se è una prestazione magari a poco tempo ma regolare e sistematica, allora lei deve fargli un altro contratto, sì. Perché altrimenti, se sottoposto a verifica, ci sarebbero i motivi per contestargli. Ormai vedi le non notizie, le fake news. Adesso è partito Milan Cromiro, ma non c'è sciopero per i giornalisti oggi, smettetela. Ma poi Milan Cromiro, ma Crumiro, no, ma quelli, con la K, non ti fi- o... ma no, ma te lo dicono perché non ti Juve. Ma il biscotto, il Crumiro, no? Il Crumiro. Attenzione con i biscotti. No, con i biscotti, il Sole 24. No, non ti è arrivata la circolare. Siamo tutti richiamati a essere molto attenti sui biscotti. No. Ma ti spiego perché. Queste sono le classiche fake news. Attenzione, perché in Germania vogliono punire le fake news e la divulgazione di fake news con 50 milioni di euro di multa. Faccio un po' Oscar quando urla. 50 milioni di euro di multa, capito? Caro ascoltatore, mi tengo il tuo numero di telefono. Hai diffuso una fake news e ti diamo 50 milioni. Iniziamo a correrti dietro e diamo metà caparra di questa al Milan, così almeno. Beh, te lo compri per tre vite, però, a quel punto, visto quel poco che hai incassato. Attenzione, la circolare, l'hai letta la circolare sui biscotti? No, non l'ho letta, perché stavo leggendo un messaggio. Una circolare urgentissima. Perché adesso questa radio potrà citare preferenzialmente solo una marca di biscotti, perché siccome c'è il governo Gentiloni e c'è il nuovo direttore interim del Sole Gentili, noi solo biscotti Gentilini. Quindi Gentiloni, okay. Gentili. Quindi potremmo anche rifare la campagna per il sindaco di Treviso, Gentilini. Gentilini. Governo Gentiloni, Gentiloni, direttore Gentili, biscotti Gentilini. Questa linea editoriale, ragazzi, linea editoriale. No, scusa, per chiudere, poi dopo parliamo anche un attimo di quello che succede in Olanda, eccetera. Ma chiede un ascoltatore se può pagare una prostituta con il voucher. Credo. Vabbè, dai. Il lavoro è occasionale. Sapete cosa le dico? Anche tu che rispondi sul Ma certo, serio. Perché io vorrei che emergesse quel lavoro. Vabbè, ma chiaro, questa è la grande Vorrei discussione. Che pagassero da una parte un po' le tasse, ma dall'altra anche i contributi avessero. Quindi la domanda non è peregrina, a pensarci bene. Ma naturalmente bisogna, il tabù insorge e bisogna far finta e continuiamo a sbattere per le strade. Ecco, dai, invece, è una Oscar, cosa insopportabile. Queste invece sono le cose che mi fanno un po' incazzare. L'ascoltatore Damiano che ci dice: bravi, difendete il nero. Nessuno qua difende il nero. Così continuate a evadere e eludere, ma a Radio 24 siete maestri. Capito? È adesso il cos'è? Contrario, i voucher hanno fatto emergere il nero. È il contrario, dice l'INPS, i dati dell'INPS, non di Giannino. No, ma poi la questione, poi, la questione... preferite non che senza voucher e il nero. Gli effetti dell'ideologia sono questi. Non è che... No, ma poi sai quella cosa: tanto a Radio 24 siete bravi a evadere, a eludere. Ma cosa sta dicendo, Damiano? Ma cosa sta dicendo? Vabbè. Insomma, allora, 250.000, questa è la cifra, guarda, che la stampa avete in pagina 2. Però sì, diciamo anche che ci sono ascoltatori che, per esempio, dice: questo lascia l'esterpaccia, erbaccia nel terreno, usi voucher, i voucher sono una soluzione. Qualcuno dei nostri ascoltatori sa che non facciamo propaganda per il nero, ma al contrario. 250.000 migranti sono è la cifra che è prevista per quest'anno. Sono 70.000 in più del 2016. Questo no, per dire. Poi dopo ci ritroveremo tra tre mesi a dire emergenza migranti. Questo lo dice il Ministero dell'Interno, quindi lo sanno, lo sanno in base alle previsioni. Cioè, che spiega un po' anche poi la svolta Minniti, no? Che è tanto popolare nel suo partito, eccetera, ma che però è una svolta vera. E siamo però a questo, Oscar, l'accoglienza da ripensare. Ogni anno c'è l'accoglienza da ripensare. Comunque, di migranti si discute anche molto in Olanda, di Islam si discute in Olanda. Oggi ci sono le elezioni in Olanda, fino a qualche tempo fa la riflessione intanto è questa, erano, vabbè, si vota in Olanda. Adesso, adesso uno guarda l'Olanda perché quello che è l'Olanda, quello che sarà la Francia, quello che sarà la Germania, quello che sarà la Scozia, no? Perché tutto si tiene, no? Quello che succede in Olanda ha un riflesso proprio su tutta l'Europa, in questo caso addirittura, cioè, in rapporto io credo con la Turchia. Che poi, voglio dire, le cose potrebbero andare diversamente da tutta questa attesa su Geert Wilders e su PVV, perché cioè, nei sondaggi è sceso significativamente. Fatto una non campagna sui soliti temi, a differenza di quello che si pensi da fuori, come se fosse il grande protagonista della politica olandese, nel dibattito pubblico olandese non è affatto il grande protagonista. I sondaggi dicono che arriva terzo e che comunque la certezza è che si fa di nuovo un governo senza di lui, punto. Quindi da questo punto di vista è un personaggio di cui oggi misurare attentamente i voti, vedere l'effetto, però è molto più mediatico che sostanziale, ecco, il tema. Sì, quello poi si vedrà. Io, come spesso dico, perché la politica è proclami, proclami, ma poi alla fine a un certo punto si va a contare i voti. E in base ai voti, in questi ultimi due giorni, Rutte, cioè il liberal democratico, che fa un governo di coalizione, perché lì sono una ventina di partiti, nessuno ha i voti per fare un governo da solo, ha guadagnato proprio per la risposta durissima che ha dato Erdogan, dicendo al ministro degli esteri turco qui al comizio non vieni a farlo in Olanda e torna al tuo paese. Sì. Io devo dire che credo che l'Europa stia sbagliando a chiedere a tenere gli occhi chiusi verso la Turchia di Erdogan. Mi chiedo come faccia l'Italia da questo punto di vista. Ci ha fatto anche diverse trasmissioni. Io ricordo tutti che Erdogan ha estromesso 150.000 dipendenti pubblici dopo il golpe, ha incarcerato 45.000 persone, ci sono 15 giornalisti in carcere, ci sono parlamentari dell'opposizione in carcere, e tutto questo noi facciamo finta bellamente di non vederlo. Il referendum di aprile gli darà pieni poteri assoluti, anche quel po' di voto parlamentare che contava nell'equilibrio dei poteri viene cancellato. No, ma infatti io non sto discutendo se poi in Olanda abbiano fatto bene o no, ma che qualche giorno fa a Rotterdam abbiano detto no, qui il ministro turco non viene per questioni di ordine pubblico, instaurando poi un dibattito vivace tra il grido di fascisti, nazisti, voi eravate con i vostri soldati a Srebrenica, ha detto Erdogan, macellai Srebrenica, sappiamo il massacro dei musulmani, l'ex Jugoslavia. Insomma, però almeno si fa qualcosa, ecco, invece di tenere sempre la politica del non scomodiamo nessuno, la politica dei passi felpati. Però siccome la risposta della Turchia è attenti europei che noi stiamo ancora rispettando l'accordo per frenare gli immigranti, e non ci avete dato i 6 miliardi, ci state rompendo le scatole, oltre che nazisti, perché ha accusato che sono nazisti sia olandesi che tedeschi, noi riapriamo il rubinetto. E a quel punto, secondo me, invece che i 250.000 su cui titola la stampa da cui siamo partiti, diventano ancora di più che passano per l'Italia. Esatto, infatti per questo tutto si tiene, e poi la questione migranti è legata anche alle elezioni in Olanda, perché metti che la Turchia dica a questo punto ci avete rotto, cara Europa, siete contro la Turchia, sappiate che noi teniamo qui un flusso di migranti dalla Siria pronti a partire con la valigia in mano. Vedi qua, Oscar, non vi si regge senza ospite telefonate, mettete Bob Marley, bravo per la seconda parte del messaggio, bravo. Oppure no, siete grandi, andate avanti così. Vedi, adesso noi faremo questa cosa di cross checking, vi metteremo in contatto, cari ascoltatori, fate un referendum, un sondaggio. C'è anche chi dice che facciamo di tutto per non parlare ovviamente della vicenda di Lotti eccetera eccetera, che Grillo ha ragione. Io per esempio penso che la battuta di Bersani ieri è un po' azzeccata, perché o dice le cose come stanno Lotti, oppure il capo della Consip delle due lune, quindi questo credo che Bersani ci abbia preso. Non parliamo di Lotti, oggi ci sarà la mozione di sfiducia, esatto, che verrà respinta, i numeri dovrebbero essere quelli, non parliamo di Lotti, per carità. Oggi tra l'altro sulla Verità si parla di una nuova indagine perturbativa d'asta a Firenze in cui verrebbe fuori ancora il nome di Lotti, staremo a vedere se è davvero così. E che sarebbe stato anche in quel caso avvertito dal generale Saltramacchia dei Carabinieri, sì, che ha indagato, sì, eccetera eccetera eccetera. Però vediamo di cosa si tratta, cioè sono cose molto, molto politiche. Non abbiamo parlato neanche, e ci ha colpito, del fatto che Beppe Grillo è stato denunciato per qualcosa che ha scritto nel blog. I suoi avvocati hanno detto ma lui non è responsabile, curatore, gestore, promotore, nulla del sito beppegrillo.it. che se non altro incuriosisce, ecco, questa. No, perché io, non, io a dire la verità, siccome l'ho letto molte volte, ci sono dei colleghi poi che si sono specializzati in questo, per esempio Jacopo Cuboni della Stampa e così via, e effettivamente nel rileggere quel testo vengono i punti interrogativi, cioè non è Grillo ma è la struttura Casaleggio? No, è la struttura della comunicazione. Beh, lì c'è il nome e un cognome di uno che credo risponda alla Casaleggio. Ecco, no? Cioè è questa. Però è il nocciolo nel respingere l'accusa e quindi ogni eventuale responsabilità di Grillo. Però è un documento anche che indica per la prima volta con precisione una responsabilità, che ne individua quindi e circoscrive anche gli aspetti di fronte alla legge, per così dire. Ma è chiaro. Cioè, lì è stato fatto pare un cordone anche attorno a Beppe Grillo, che è già intasato di una serie di querele, mica male pare, così racconta i giornali. E quindi sì, il sito è beppegrillo.it, ma il responsabile dei contenuti è una persona terza. Non è Beppe Grillo, insomma. Vabbè, caro Oscar, detto che hai già preso il biglietto per Cardiff, che cosa ti ha colpito per concludere questa puntata? Io devo dire la verità, tra le vicende di cronaca di oggi, quella dei ragazzini della scuola media di Vigevano, sì. Mi colpisce, io mi interrogo e dico, ma mettiamo che i miei figli andassero a scuola toccate e investite da fenomeni come questo. Ma tu, a quei ragazzini di 13 anni e 15 anni che bulleggiano, picchiano, abusano sessualmente, riprendono, come li recuperi? Come li riprendi in mano? Ecco, questa domanda, devo dire la verità, quindi me la pongo da padre, da cittadino, è una domanda a cui mi trovo sgomento. E non c'è una risposta. Intanto bisogna capire se quei padri o quelle madri vogliono davvero riprendere in mano, si rendono conto della prima cosa, no? No, ho capito, però perché sai lì cosa fai? La repressione, 13 anni, non so, ci credo poco a quell'età che sia la vecchia idea, la vecchia minaccia che ci illustravano quando ero piccolo a Torino, il Ferrante a Porti, che era l'istituto appunto correzionale penale per i minorenni, il Ferrante a Porti, chi entrava lì usciva delinquente, per dire, cioè era un percorso ben chiaro, e infatti purtroppo io ricordo casi esattamente così. Diciamo, ci vuole sicuramente una repressione, sì. Un fermarli, è chiaro, la però, domanda che tu poni su come educarle, come recuperarle, cioè che vedi subito chi dice a schiaffi, a sberle. No, ma figuriamoci, ci vuole il giusto mix. Quale sia, non mi è molto chiaro nel mondo in cui viviamo, ecco, per così dire. Perché da una parte quelli sono già molto inoltrati in un sentiero in cui non hanno l'idea precisa di quello che fanno e hanno comportamenti, per così dire, imitativi, emulativi di violenza. E bisogna spiegargli. Dall'altra, quale forma repressiva adottare di giusta verso adolescenti? Mamma mia. Insomma, repressiva e rieducativa allo stesso tempo. Non è facile. Comunque, vi lasciamo con questa. Eccoci. Cioè, voi avreste preferito 40 minuti così? Sì. Sì. No, non buttiamoci giù. Io anche 3 ore così. Ma perché... non è che ti devi buttare giù, ma il confronto con Bob Marley è... Il confronto con Bob Marley, va bene, ognuno c'ha... Cioè, non è che... Non puoi paragonarti a Bob Marley adesso, Oscar. Io? Non ci penso neanche. Innanzitutto i capelli. Se permette. Magari. Ti porto una parrucca rasta e facciamo una foto domani. Dai. Non parlo di alcune foto mie che giro da ragazzino, perché è meglio evitare. Ragazzino, tutti a carnevale hanno fatto qualche cavolata. Vabbè, dai, ci troviamo domani, caro Oscar, tu alle 16:30 e poi domani qui a 24 mattino. Buona giornata a tutti. Ciao.